Nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, essendo io incaricato del vino, presi il vino e lo porsi al re. Non ero mai stato triste in sua presenza. Mi disse il re: «Perché questo volto triste? Eppure non sei malato. Ciò non è altro che sofferenza del cuore». Allora fui preso da una grande paura e dissi al re: «Viva il re in eterno! Come potrebbe non essere addolorato il mio volto, quando la città dove stanno i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono state divorate dal fuoco?» Il re mi domandò: «Che cosa desideri?» Invocai allora il Dio del cielo e risposi al re: «Se questo piace al re, e se il tuo servo è gradito agli occhi tuoi, fammi andare in Giuda, alla città dei sepolcri dei miei padri, affinché io la riedifichi». Il re mi domandò, e la regina stava assisa al suo fianco: «Quanto tempo durerà il tuo viaggio e quando ritornerai?» Parve bene al re di lasciarmi partire, e io gli fissai una data. Dissi ancora al re: «Se piace al re, mi vengano date lettere per i governatori dell'oltrefiume, affinché mi concedano il passaggio fino a che io arrivi in Giuda, e una lettera per Asaf, ispettore del parco reale, affinché mi dia legname per ricostruire le porte della cittadella del Tempio, per le mura della città e per la casa in cui dovrò andare». Il re me lo concedette, perché la mano benevola del mio Dio era sopra di me. Giunsi presso i governatori dell'oltrefiume e diedi loro le lettere del re. Con me il re aveva inviato anche alcuni capi dell'esercito e un gruppo di cavalieri. Quando però Sanballat coronita e Tobia il servo ammonita ne ebbero notizia, si irritarono grandemente, perché era giunto un uomo che avrebbe ricercato il bene dei figli di Israele. Arrivai dunque a Gerusalemme e vi stetti 3 giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi uomini, senza aver manifestato a nessuno che cosa il mio Dio mi andava suggerendo di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun giumento tranne quello che io cavalcavo. Uscii di nottetempo per la porta della valle verso la sorgente del dragone e quindi verso la porta dell'Etame, ispezionando le mura di Gerusalemme diroccate e le porte divorate dal fuoco. Proseguii verso la porta della sorgente e la piscina del re, ma non v'era posto per cui far passare il giumento su cui stavo. Risalii allora per la valle, sempre ispezionando le mura di notte, e rientrando per la porta della valle, rincasai. I magistrati non avevano saputo dove io fossi andato né che cosa intendessi fare. Fino a quel momento non l'avevo infatti manifestato né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad altri che avessero qualche carica. Allora dissi loro: «Voi vedete la sciagura in cui ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consunte dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più oggetto di derisione». Raccontai loro come la mano benevola del mio Dio era stata sopra di me e anche le parole che il re m'aveva dette. Allora essi esclamarono: «Su, mettiamoci a costruire». Presero coraggio nel dar mano a quest'opera egregia. Quando, però, lo vennero a sapere Sanballat, coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Gesem, l'arabo, si fecero beffe di noi e dicevano, dileggiandoci: «Che cosa andate facendo? Volete forse ribellarvi al re?» Ma io li rimbeccai e dissi: «Sarà il Dio del cielo a farci avere un esito felice. Noi, suoi servi, ci accingiamo a costruire, per voi, invece, non vi sarà parte né diritto né ricordo». in Gerusalemme.